Le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore. Guai di mamma Rai, Maria Luisa Busi lascia la conduzione del TG1 e Santoro attacca in TV l'azienda e il PD. Verso la manovra da 28 miliardi di euro in arrivo tagli agli enti locali e sanità. Sequestrato in Liguria lo yacht usato da Flavio Briatore, l'ipotesi di reato è contrabbando. Madrid si prepara alla festa Champions e la stampa spagnola rilancia Mourinho al Real Madrid dopo la finale di domani. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In apertura dunque parliamo della RAI, casi del giorno, Santoro e Busi. Volete che rimanga? Ditelo e lo farò. Conclude così Michele Santoro la sua lunga e dura requisitoria contro destra, sinistra, giornali, RAI, compresi i consiglieri in quota PD, tutti colpevoli di averlo denigrato, comunque non abbastanza difeso contro chi cercava senza pretesti di chiudere Anno Zero. Il conduttore dunque, dopo le polemiche sulla liquidazione milionaria, rilancia la palla dall'altra parte del campo. Anno Zero deve essere considerato la perla del servizio pubblico. Se voi dite questo, basta una parola così e io sto fermo. Irritazione dei consiglieri PD Rizzo Nervo e Van Strate nella nostra risposta, dice quest'ultimo, era già arrivata da tempo. Ho già risposto 2 mesi fa dicendo che io ritenevo assolutamente utile che lui rimanesse in Rai a fare quello che faceva. Dopodiché per 2 mesi non l'ho sentito, mesi in cui evidentemente lui ha condotto una trattativa di cui ho preso atto. Intanto riflettori puntati anche su Rai 1, Maria Luisa Busi rinuncia alla conduzione del TG delle 20. Non mi riconosco più nella testata, scrive in una lettera. E se un giornalista per difendere le prerogative professionali può togliere la sua firma, un conduttore può solo togliere la sua faccia. Decisione che arriva dopo una serie di scontri con il direttore Minzolini. Alessandra Schepisi, GR24 e Sole 24 Ore, Roma. Il disegno di legge sulle intercettazioni, in questi minuti il relatore della norma, il senatore Centaro, è a colloquio con il presidente del Consiglio Berlusconi a Palazzo Grazioli. Dal provvedimento verrebbe esclusa la parte che prevede sanzioni e carcere per i giornalisti. Dovrebbe restare però la sanzione che riguarda gli editori. Lo conferma Alessio Butti, senatore PDL, membro della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Lo ha intervistato Stefano Totolo. Penso che sia confermato il ritiro di quel famoso emendamento del governo che inaspriva ulteriormente le pene per i giornalisti che pubblicano ciò che la legge in realtà vieterebbe di pubblicare. Quindi credo che su questa strada il relatore Centaro prosegua. E invece per quanto riguarda gli editori? La voce che girava ieri era quella di presentare un emendamento, ora non so se in commissione o comunque in aula, che riducesse le sanzioni previste, soprattutto le minime, secondo alcuni componenti della Commissione Giustizia, primo fra tutti il Presidente Berselli, sono state giudicate un po' troppo elevate, però credo che il principio della sanzione resti, sicuramente sarà modulato diversamente, ma il principio della sanzione resta. Il presidente dell'Unione Europea Herman Van Rompuy intende accelerare la conclusione dei lavori della task force sul rafforzamento della vigilanza sui conti pubblici e della governance economica, che si riunisce oggi a Bruxelles per la prima volta. L'accelerazione intende seguire l'urgenza dettata dalla crisi per nuove regole e meccanismi. Oggi il primo confronto è fra i ministri delle finanze e per l'Italia partecipa il ministro dell'economia Giulio Tremonti. E intanto a casa nostra si precisano i termini della manovra. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Attesa ufficialmente non prima di giugno, la manovra economica sembra invece essere pronta. La necessità di correggere i conti pubblici a causa del recente colpo di coda della crisi finanziaria ha spinto il governo ad accelerare i tempi. Lunedì l'esecutivo renderà noti i contenuti del provvedimento alle parti sociali, martedì poi il testo arriverà sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Già ieri Tremonti l'ha illustrata al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Assi portanti dell'intervento da 26 miliardi di euro previsto dal Ministro dell'Economia sono i risparmi sulle spese della macchina dello Stato, dalla sanità agli enti locali, passando per i tagli degli stipendi di politici e manager della pubblica amministrazione, vi è poi il giro di vite sulle pensioni di invalidità. Si prevede inoltre il rafforzamento degli incentivi alla produttività del lavoro e la probabile conferma del blocco del turnover nella pubblica amministrazione. Non ci saranno nuove tasse ed interventi sulle pensioni, conferma oggi il ministro Sacconi. L'obiettivo di Tremonti sembra a questo punto chiaro: arrivare all'Eurogruppo del 7 giugno con una manovra di intervento sui conti già alle spalle, un modo questo per rassicurare Bruxelles sulla stabilità del nostro paese. Da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. L'ipotesi, l'avete sentito, è di una finanziaria da 28 miliardi, 4 dei quali dovrebbero arrivare da un taglio ai trasferimenti agli enti locali, comuni e regioni. Valentina Furlanetto ne ha parlato con il sindaco di Torino e presidente ANCI, l'Associazione dei Comuni, Sergio Chiamparino. I comuni negli ultimi 5 anni hanno dato un contributo positivo ai saldi di finanza pubblica di più di 2,5 miliardi di euro. Il comparto dei comuni ha dato un contributo positivo. Aggiungo che il comparto dei comuni pesa per circa l'8,5% in termini di valore della produzione rispetto all'intera pubblica amministrazione. Quindi i sacrifici, siamo pronti ad affrontare la sfida a condizione che paghi di più chi finora ha pagato di meno e che paghi di più chi pesa di più rispetto all'intero comparto della pubblica amministrazione. Quindi che non siano tagli indifferenziati. Esatto, non possiamo accettare di essere messi alla stessa stregua di altri comparti locali o centrali che in tutti questi anni non hanno dato un contributo positivo o peggio ancora hanno contribuito a peggiorare i saldi di finanza pubblica. Non ho né mai ho avuto conti aperti né disponibilità in banche estere, tantomeno in filiali di banche italiane operanti in Lussemburgo. La precisazione arriva dal ministro delle Infrastrutture Altero Matteoli in merito ad articoli su Libero e il Fatto, secondo i quali ci sarebbe un conto riconducibile al ministro in una banca operante in Lussemburgo. Questa invece è la replica del ministro dei Beni Culturali e coordinatore nazionale PDL Sandro Bondi, anche lui citato negli articoli. Sapevo di vivere in un paese barbaro e incivile, almeno per le persone oneste, ma non fino a questo punto. E siamo alla pagina di cronaca. Blitz dei Ross questa mattina a Roma contro i presunti autori di scritte oltraggiose, atti di vandalismo contro la comunità ebraica e contro il sindaco della capitale. Indagate 4 persone, tutte dell'organizzazione di estrema destra Milizia. Sono accusate fra l'altro di aver imbrattato i muri del Museo della Liberazione di Via Tasso e le pietre d'inciampo a memoria della deportazione nel ghetto. Questo invece accade in Liguria, sequestrato lo yacht di Flavio Briatore. Il Force Blue, più una nave che uno yacht, risulta intestato ad una compagnia di charter, in sostanza verrebbe di volta in volta affittato per vari periodi. In realtà, sostiene la Guardia di Finanza, il natante extra lusso, è lungo 62 metri, era nell'uso esclusivo di Flavio Briatore, il super manager della Formula 1, brillante e chiacchierato per le gioie e le disavventure tra i motori e per le belle donne. L'ultima delle quali, Elisabetta Gregoraci, è ora sua moglie e mamma di suo figlio. E l'altro pomeriggio a bordo del Force Blue si trovavano la donna e il bimbo, quando le motovedette delle Fiamme Gialle lo hanno inseguito e bloccato al largo della Spezia. Briatore era altrove. Sul maxi yacht battente bandiera delle isole Cayman pendeva un ordine di sequestro disposto dalla procura di Genova. L'ipotesi contestata è contrabbando conseguente ad una frode fiscale. In sostanza, facendolo risultare intestato ad una società di charter, il proprietario avrebbe goduto di una serie di notevoli agevolazioni fiscali. Andrea Ferro, GR24 Sole 24 Ore, Genova. Ed ora andiamo a Madrid, che si prepara la festa Champions di domani. Speriamo che sia una festa italiana. Ci colleghiamo con la capitale spagnola e con Massimo Donadio. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, come si presenta oggi Madrid? Ha già i colori dell'Inter? Si vedono in giro i tifosi? Allora, si presenta in parte in maniera lavorativa, perché chiaramente oggi è una giornata feriale qui per la capitale spagnola, non ci sono squadre spagnole in finale, per cui chiaramente la vita continua da un certo punto di vista, però stanno arrivando alla spicciolata anche i tifosi interisti, i tifosi anche del Bayern Monaco, e si iniziano a vedere magliette, magliettine, bambini, famiglie, giovani, e quindi insomma si preannuncia una vigilia calda dal punto di vista, appunto, speriamo solamente sportivo. Ecco, certo, assolutamente, speriamo che resti questo il clima anche insomma domani nel post partita. Invece per quanto riguarda gli allenamenti, Massimo? Sì, per quanto riguarda gli allenamenti, il menù è ovviamente abbastanza ricco, nel senso che oggi alle 3:30 ci sarà l'allenamento dell'Inter che si svolge nella città del Real Madrid, il grande centro del Real Madrid, mentre alle 17 invece allo stadio Bernabeu, dove tra l'altro mi trovo, si svolgerà l'allenamento del Bayern Monaco. A seguire ci sarà la conferenza stampa dell'Inter con José Mourinho, Zanetti, Cambiasso e Sneijder, un programma molto ricco. Ecco, a proposito di Mourinho, oggi la stampa spagnola rilancia per l'ennesima volta l'ipotesi che Mourinho se ne vada dall'Inter proprio dopo la finale di domani. Sì, effettivamente è ormai un tormentone, in questi ultimi giorni si sono avvicendate continue notizie di questo profilo, soprattutto provenienti dalla Spagna. Mourinho non ha assolutamente negato nulla, non ha ancora confermato, ha detto che si prenderà qualche giorno appena dopo la finale di Champions per decidere. Però ecco, chiaramente i tifosi nerazzurri continuano a essere preoccupati e il presidente Massimo Moratti crede, spera che questa vittoria possa dare ancora più morale e anche più voglia a Mourinho di continuare in nerazzurro. È anche vero che però avendo conquistato tutti e tre i trofei della stagione, chiaramente forse gli stimoli inizierebbero a diminuire. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato delle vicende Rai. Maria Luisa Busi con una lettera annuncia: lascio la conduzione del TG1 e Santoro attacca in TV azienda ma anche il PD. Verso la manovra da 28 miliardi di euro, in arrivo taglia ad enti locali e sanità. Poi abbiamo parlato di Madrid, ci siamo collegati con Madrid che si veste dei colori nerazzurri in attesa della festa Champions e la stampa spagnola rilancia Mourinho al Real Madrid dopo la finale di domani. E ripartiamo dai commenti anche del mondo cattolico all'annuncio della creazione della prima cellula artificiale nel laboratorio americano di Craig Venter. È un ulteriore segno della grande intelligenza dell'uomo, ha detto il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della CEI. Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo, al microfono di Nicoletta Carbone. Quello che hanno fatto Venter e i suoi collaboratori è stato quello non di creare una nuova cellula con nuove funzioni, ma ha modificato il DNA di un batterio, si chiama Mycoplasma mycoide, vive nel nostro intestino. Allora, quello che lui ha fatto è stato prendere il DNA di questo batterio, toglierlo e metterci un DNA sintetico, disegnato col computer, che è il DNA di un altro batterio molto simile al primo, peraltro. Venter ha detto che diventerà uno strumento potente e che potrà essere utilizzato per ripulire l'ambiente, ma anche per produrre vaccini. C'è da crederci. Ma questo è quello che noi sapremo fare in futuro con la biologia molecolare, non generalmente con questo approccio, con tanti approcci insieme diversi che ci portano a utilizzare le conoscenze sulla struttura e la funzione del DNA per creare vaccini, per creare farmaci, per eventualmente ripulire l'ambiente o addirittura, come avrebbe scritto Venter in questi giorni, per avere del combustibile che sia per esempio alternativo al petrolio. Parla ai politici Papa Benedetto XVI. I cattolici, ha detto oggi in udienza in Vaticano, devono partecipare attivamente alla vita politica in modo sempre coerente con gli insegnamenti della Chiesa. Non spetta alla Chiesa, ha spiegato il pontefice, formare tecnicamente i politici, ma la sua missione comporta anche di dare giudizi morali su cose che riguardano l'ordine politico. Servizi e pubblica amministrazione da un lato, cittadini dall'altro. 10 anni di dolori nel rapporto presentato oggi da Cittadinanza Attiva. Sentiamo Antonio Gaudioso, responsabile politiche dei consumatori di Cittadinanza Attiva, al microfono di Matteo Finco. Per quanto riguarda la telefonia e non solo, ma anche l'energia, parliamo di blocchi e problemi legati al diritto di libera scelta da parte dei cittadini, quindi resistenza più o meno passiva da parte degli operatori. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, è vero che c'è un miglioramento e senza dubbio si vede anche la mano delle azioni fatte dal governo in questo senso. Bisogna però dire che c'è un buco nero che riguarda i servizi pubblici locali, che aumenta in termini di gravità. Come si può intervenire per migliorare un po' la situazione? Diciamo che si può intervenire garantendo più trasparenza, intervento da parte dell'autorità di regolazione per eliminare tutti quei vincoli o quei balzelli che impediscono o limitano la possibilità della scelta all'interno dei mercati liberalizzati, la capacità di intervenire in maniera più trasparente anche per limitare l'aumento delle tariffe dei servizi, che purtroppo è un altro dato ricorrente, che continuano ad aumentare di anno in anno. Il contratto televisivo della Lega Calcio con Sky vale 1.149 milioni di euro, ora però è a rischio. Un piccolo editore ha fatto ricorso contro l'illegittimità del monopolio e si attende la sentenza. Il mondo del calcio è appeso a una sentenza. Questa volta Calciopoli però non c'entra, ma un giudice deve decidere del ricorso contro i diritti Sky. Il polverone l'ha sollevato un giovane editore, Marco Crispino. Non è che non è giusto che Sky trasmetta tutta la Serie A. Non è giusto che nessuno possa partecipare per cercare di prendere una parte di questa Serie A e trasmetterla. Quest'estate è stato fatto un bando sul satellite che prevedeva un pacchetto unico contro le indicazioni dell'antitrust, perché se c'è un pacchetto unico non ci può essere concorrenza, perché anche se non l'avesse presa Sky, sarebbe morta Sky, sarebbe nato un altro monopolista, quindi sempre monopolio restava. Crispino, con la sua Conto TV, si è rivolto al TAR del Lazio, che gli ha dato ragione nel merito. Ora la parola passa al Tribunale di Milano. Lei giudice, visto che il TAR non ha questo potere, deve interrompere, bloccare, congelare, diciamo, il bando, in modo che la Lega sia costretta a rifare la gara. Se il giudice dice che un pacchetto non va bene, ci pare ovvio che dovrà farne più di uno. Ma non si sente Crispino la responsabilità di bloccare il campionato di calcio? Non c'è questo pericolo per quanto mi riguarda, perché la Lega può rimettere in vendita i pacchetti e il tempo di pubblicazione del bando è 10 giorni. Quindi se la Lega è previdente, come spero che lo sia, dovrebbe già aver preparato, visto che la chance pare che ci sia che possa perdere, se ha già preparato 2 bandi da buoni imprenditori, come io mi sono preparato a partecipare subito, velocemente, dopo 10 giorni c'è di nuovo tutto quello che aveva. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Al Festival del Cinema di Cannes, grandi applausi per il film Fuori dalla legge del franco-algerino Bouchareb. Una conferenza stampa affollatissima. C'era per noi anche Cristina Battocletti. Buongiorno Cristina. Buongiorno a voi, è un vero perché caso tutto per questo interesse. La Loi Fuori dalla legge del franco-algerino Rachid Bouchareb sul colonialismo francese in Algeria. Massicci controlli alla proiezione questa mattina, molta polizia e massicci controlli anche per accedere alla conferenza stampa, che era pienissima. Il film parte dall'espropriazione delle terre algerine da parte dei francesi e mostra il massacro di Sétif del 1945 e poi racconta la nascita e l'evoluzione del Fronte Nazionale di Liberazione Algerino attraverso la storia di una famiglia fino all'indipendenza del 62. Allora, dal punto di vista cinematografico è più fiction che cinema, è agiografico e con delle punte retoriche. Però è stato molto applaudito per i contenuti che solleva. La storia del colonialismo francese in Algeria deve essere raccontata, ha detto il regista, che è stato accusato nei giorni scorsi da alcuni esponenti del governo di negazionismo. Il mio non è un film politico, ma apriamo il dibattito, parliamo e poi voltiamo pagina. Va bene, grazie. Grazie a Cristina Battocletti, ci risentiremo nei prossimi GR24. Ci stai raccontando, e ne siamo davvero contenti, questo Festival del Cinema di Cannes. Fra una settimana Jordan Romero, un ragazzino di 13 anni della California, potrebbe coronare il suo sogno, conquistare la cima dell'Everest e diventare così il più giovane scalatore sulla vetta nella storia. Un record che negli Stati Uniti ha suscitato un dibattito. Che senso ha, si chiedono infatti molti, permettere ad un ragazzino di fare un'impresa così rischiosa? Ne abbiamo parlato oggi nel nostro sondaggio, vi abbiamo chiesto se voi foste i genitori glielo avreste permesso. Hanno vinto i no con il 79%. Orienti è il tema della 6ª edizione di È Storia, il Festival Internazionale della Storia di Gorizia, in programma da oggi a domenica. Ma perché Orienti? Adriana Fracchia l'ho chiesto al curatore del festival, Adriano Ossola. È stato scelto in continuità con una serie di altre edizioni nelle quali avevamo dato spazio a imperi, rivoluzioni, patrie, eroi, insomma una serie di parole chiave della storiografia mondiale che ci hanno permesso di spettacolarizzare la storia, renderla però anche fruibile a un pubblico molto ampio e affrontare con serietà in ogni caso la revisione, la rivisitazione all'interno di dibattiti e incontri della storia. L'occasione è anche la presentazione in prima nazionale di un libro, Un destino parallelo, la storia del mondo vista attraverso lo sguardo dell'Islam, di questo giornalista storico Tamim Ansari. Quello è un libro simbolo forse per l'intero festival quest'anno, libro estremamente ambizioso, così nella sua idea, cioè quella di rivedere l'intera storia dell'umanità con occhi islamici e riscrivere una specie di storia del mondo, quindi islamica, però non contiene alcuna visione antitetica o vicina all'idea dello scontro di civiltà, quanto piuttosto la necessità di cogliere periodizzazioni o aspetti della storia che dal nostro punto di vista prospettico non si sarebbero mai colti. Ed è tutto per questo GR24, il prossimo alle 14. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.